se il bel che tanto giunge addentro nei cori e tanto vedi che io lo saprai s'altro più teme il mio di te son la morte e la ruina. Ma sii pietosa donna, come sei saggia, vanne e va, ti prego te son, digli che il fine l'ire ti ponga, digli. Non recusi in dono ciò che il retaggio gli chiede, regni, ma per me regni, nell'abbio grado, renda, segui, amore. Zitiana, il regno, ai taci sospiro. Oh, silenzio, oh, sospiro, vergognoso il loquace, va, dimmi, ah, assai dissi, si intende un cor, quando sospiro.